pagar. Una música brutal encendió nuestra pasión. Melog 2.0 di Gianluca Nicoletti. Io sono stato per anni tacciato di monomanialcalità perché parlavo spesso della rete. Ho articolato gran parte del mio lavoro professionale alla radio nell'integrazione fra l'antica, vecchia, vetusta radio e il nuovo scattante mondo di internet. Sì, ma questo accadeva però a metà degli anni 90. Sono passati un po' di anni. Parlare ancora oggi di internet come se fosse qualcosa di alieno, di staccato, di totalmente differente dal quotidiano della maggior parte degli esseri viventi, sembra un po' essere far parte di una sorta di mondo archeologico, di mondo che non ha più ragione di esistere. Per la stessa ragione oggi invece vorrei proprio riparlarne, perché ci troviamo di fronte a un singolarissimo paradosso. Tutte le persone che appartengono alla generazione dei cosiddetti pionieri della rete, quelli che ancora vi dicono che nei lontanissimi fine degli anni Ottanta loro già giocavano con le BBS, già si scambiavano messaggi, avevano i fantomatici modem che facevano tantissimo rumore, che passavano molto lentamente i dati, poi andando avanti sono quelli che si sono evoluti, sono quelli che hanno sempre guardato con un occhio scettico i parvenu della rete, i nuovi, gli entusiasti, sono quelli che oggi pongono maggior attenzione rispetto a, da una parte, dilagante e cosmico entusiasmo per tutto ciò che permette la rete, l'esplosione della democrazia, l'autodeterminazione, la possibilità di essere editori di se stessi, la possibilità di dare a ognuno una chance di poter proclamare il proprio pensiero e diffonderlo. Ma d'altra parte esiste anche ancora un profondo, radicato, inspiegabile, inveterato timore nei confronti di tutto ciò che rappresenta la rete. Quindi è paradossale quello che sta accadendo rispetto al mondo di internet. Su questo oggi vorrei convocare il pubblico, anche perché mi interessa avere quella che è una percezione media della sensazione di un pubblico radiofonico rispetto a internet. È ancora qualcosa di così lontano, alieno, esotericamente articolato rispetto ai vostri usi quotidiani? Ormai parlare di internet è come parlare della conduttura dell'acqua potabile a casa vostra, della rete elettrica, una dei tanti veicoli attraverso cui entra e esce nella vostra vita informazioni, dati, linfa vitale o anche linfa superflua. Per l'altro versante invece, oggi siamo beneficiati dall'attualità, la cronaca ci riporta un'importante sentenza della Corte Costituzionale francese che ha bocciato la cosiddetta legge antipirateria che aveva voluto il presidente Sarkozy, che era molto attento e molto veemente nei confronti dell'atteggiamento del navigante della rete, che viene quasi classificato antropologicamente come una persona con una tendenza innata al delinquere. Quindi questa legge puniva i pirati informatici, puniva tutti coloro che usavano la rete come luogo di illecito scaricamento di proprietà d'autore altrui, e in maniera addirittura preventiva, in misura censoria, togliendo a loro il diritto di navigare. C'era una possibilità di interrompere il flusso della rete a casa di chi aveva strumenti e capacità e era dimostrabile che usasse la rete per scaricare musica, film e cose simili. Ecco, su questo argomento vi pregherei di intervenire, il numero è 800240024, anche voi che considerate un mondo alieno quello di internet, anche voi che ci lavorate tutti i giorni, vi chiedete ancora perché esistano in giro per il mondo, ma soprattutto per il nostro paese, persone che hanno fatto loro ragione di vita e di professione in paraticcia, l'andare in giro a parlare di internet. Cosa sei? Un esperto di rete? Cosa sei? Un mass mediologo? Di cosa parli? Della meraviglia di internet, che figata, siamo tanti milioni, abbiamo la rete, che bello. Ne parlo con alcuni amici che avete spesso sentito a questi microfoni, che ora considero le persone più titolate a parlare dell'argomento di oggi, anche perché non ne fanno esplicita bandiera quotidiana delle loro competenze. Andrea Rossetti, docente di filosofia informatica giuridica alla Bicocca di Milano, ti convoco subito sulla notizia fresca di questa mattina, che nemmeno tutti i giornali nazionali hanno riportato. spiegato, perlomeno con approfondita analisi, la bocciatura della legge Sarkozy. Beh, è un bel colpo, direi, in primo luogo perché è stata fatta da un'altra istituzione francese, cioè la Corte Costituzionale francese, composta peraltro per la maggior parte di persone che sono conservatori, quindi non sono sicuramente persone che possono essere ascritte in qualche maniera a una mentalità di sinistra o qualcosa del genere. Costoro hanno ribadito il diritto fondamentale di espressione che oggi si esplica anche attraverso l'uso della rete. Ed è veramente una cosa molto, molto importante, ha una ripercussione in tutta Europa, anche in Italia, dove tutto sommato si stava cercando di far passare una legge di questo genere. L'altra cosa interessante, questa senza, io non l'ho letta ancora, perché appunto è comunque di ieri, non ce l'ho fatta ancora, ho visto solamente un po' di resoconti sui giornali. L'altra cosa importante che viene ribadita inoltre è il fatto che la sospensione in ogni caso non può essere una cosa automatica demandata a una autorità di tipo amministrativo, come sarebbe stata questa ADOPI, questa autorità ad hoc messa appunto, creata da questa legge di Sarkozy. L'idea è che nel caso in cui io debba privare un cittadino di un diritto così fondamentale come l'accesso a internet, devo comunque passare dal giudizio di un giudice, e questo è molto importante in un'epoca in cui, soprattutto per quello che riguarda il diritto della rete, alcune sanzioni, alcune pene sono irrogate in maniera automatica, appunto attraverso una sanzione di tipo amministrativo e non invece attraverso una decisione di un giudice di persona che valuta il caso concreto che ha di fronte. E quindi credo sia una cosa molto positiva anche per noi in Italia, ripeto questa. Secondo ospite, Giampiero Lotito, autore di Emigranti Digitale per Bruno Mondadori, con te abbiamo parlato giorni fa, sei un antropologo dell'atteggiamento dell'umanità nel confronto appunto del mondo digitale, del mondo della comunicazione. Sei d'accordo con Andrea Rossetti sul fatto che questa sentenza della Corte Costituzionale francese è importante perché innanzitutto taglia la testa al concetto che parlare di rete o rivolgersi alla rete o essere esperti di rete significa appartenere ormai a una generazione antropologicamente passata. La rete fa parte dei bisogni primari, come fa parte dei bisogni primari è un diritto poter avere l'acqua corrente a casa, avere la luce elettrica, avere tutte le cose che servono per vivere, mandando avanti anche i bisogni fondamentali di comunicare e relazionarsi. Sicuramente, ma la rete, come tutte le tecnologie innovative degli ultimi 20-25 anni, hanno portato con sé il problema dell'accettazione e il problema anche del tentativo che molto spesso è stato fatto di plasmare le nuove tecnologie, le nuove possibilità alle vecchie regole e non creare nuove regole per le nuove tecnologie. Questo è un errore che è stato ripetuto tante volte e molto spesso è stato fatto anche dall'industria o comunque dai protagonisti di queste tecnologie. Io ricordo che ad esempio una quindicina d'anni fa, quando si dava la possibilità per la prima volta di accedere alle informazioni online attraverso le prime connessioni ISDN prima e internet successivamente, ad esempio chi aveva giacimenti informativi fotografici oppure documentali, si preoccupava del fatto che qualcuno potesse accedere alle informazioni, copiarle, rubarle in qualche modo e non di tutte le nuove possibilità e di nuovi scenari che questo apriva. Quindi è fisiologico che ci siano degli atteggiamenti di questo tipo, l'importante è che poi ci siano dei correttivi quando sono sbagliati, come in questo caso sicuramente. 800 24 00 24, il tema mi sembra abbastanza chiaro, però quello che mi piacerebbe sapere è la vostra percezione, il vostro atteggiamento, il vostro sentire, come sentite mediamente a pelle quando noi parliamo di questo mondo, di questa realtà, come qualcosa che non vi appartiene, non vi apparterrà mai perché è radicalmente, biologicamente differente dal vostro esistere, o qualcosa che vi fa stupire il fatto stesso che noi ne parliamo come una realtà aliena, una realtà in lento arrivo nei nostri usi. Dice, ma è già ormai qualcosa che usiamo tutti i giorni. Guarda, io in questo momento sto lavorando davanti a un computer, non potrei fare a meno di mandare e ricevere posta elettronica, e quando mi muovo ho un palmare che mi tiene informato su quelli che sono i miei bisogni di conoscenza, relazione e di intervento sul mondo. Stefano Morigi, filosofo della scienza, terzo ospite questa mattina, mai avuto tre ospiti insieme, ma stando a Milano, avendo una possibilità di avere amici milanesi a portata di mano, ne ho approfittato. Ci sono dei precedenti nel tuo campo di studio, di azione, per cui una modalità di comunicazione tra le persone, di espressione tra le persone, abbia avuto una così forte resistenza da un certo punto di vista ad essere accettata, e una è così entusiastica e a volte nemmeno troppo serena maniera di essere considerata la chiave di volta l'universo. Molti dicono internet è la vera rivoluzione, internet ci cambia la vita. Sì, ma ci ha cambiato la vita, non ci siamo nemmeno accorti. Sono quei cambiamenti di vita, quelle sfumate lente, che non è che ti segni sull'agenda il giorno in cui la tua vita è cambiata perché è arrivato internet. E sai, molte delle rivoluzioni tecnologiche sono state graduali e non traumatiche, ma mentre sentivo le vostre riflessioni sull'argomento mi veniva in mente un bellissimo saggio pubblicato anni fa dedicato all'età dell'informazione. Chi non lo conoscesse questo saggio potrebbe pensare che quel saggio si occupasse della nostra contemporaneità, dell'invasione, della pervasività di questi nuovi strumenti delle tecnologie elettroniche. In realtà è un saggio sull'illuminismo, laddove si ravvisa che l'illuminismo è la vera età dell'informazione, non tanto è la vera età rivoluzionaria, perché è stata in grado di estendere, di trasformare in diritti conoscenze anche tecnologiche e acquisizioni culturali che c'erano già, per esempio, nel secolo precedente, magari prodotte da quella rivoluzione scientifica, in questo senso la parola rivoluzione va bene, che era stata che era esplosa qualche decennio prima. E quindi l'illuminismo era l'età dell'informazione, perché ha saputo tradurre in diritti e quindi rendere partecipi folle che diversamente sarebbero state escluse da conquiste della scienza, conquiste della filosofia e da riflessioni anche giuridiche che hanno esteso la possibilità di accedere nel senso tecnico a queste nuove informazioni, a queste nuove acquisizioni, e di conseguenza è una rivoluzione che è stata graduale, che ha conosciuto i suoi strumenti, che allora erano cartacei, che allora erano istituzionali, dalle enciclopedie alle accademie che radunavano questi intellettuali di varia formazione tentando di fare rete e di mettere a disposizione della comunità e della società appunto le nuove acquisizioni scientifiche e filosofiche. Su questo Gian Piero Lotito ci ha fatto un libro, ci ha studiato, cioè che l'entrata nell'atteggiamento che oggi chiamiamo vagamente digitale è qualcosa che, a cui siamo arrivati lentamente nel tempo. Ci sono delle tappe storiche anche identificabili, non è che a un certo punto siamo svegliati, è arrivato internet e come se fossero scesi gli extraterrestri, la nostra vita è cambiata. Uno degli esempi più divertenti e forse inattesi è quello di Filippo Brunelleschi, no? Che è stato il primo uomo al mondo a godere della concessione di un brevetto per una sua invenzione, che si chiamava Badalone, e che era un oggetto, una sorta di mezzo anfibio che serviva per trasportare il marmo che lui doveva utilizzare per la costruzione di Santa Maria del Fiore a Firenze. Non gli portò fortuna quel primo brevetto concesso dal Comune di Firenze, perché affondò al primo viaggio con tutto il marmo, e lui ci mise parecchi anni a risarcire il comune per il marmo acquistato. Però fu proprio sancito da quell'accordo tra il Comune di Firenze e Filippo Brunelleschi 500 anni fa la non copiabilità di un'invenzione, che poi negli anni è diventata brevetto, è diventata copyright. Quindi sono cose che se ci guardiamo indietro effettivamente arrivano da molto lontano. Mi fa ridere oggi fare tante mitologie che nascono legate appunto al mondo della rete. C'è anche quella, naturalmente, la maledizione di internet. Giorni fa è uscito un pezzo sul giornale, la morte corre sul web, perché misteriosamente annegato nella sua piscina il padre dell'algoritmo di Google. Quindi c'è un elenco di altri grandi padri fondatori di tecnologie o di pezzetti di quello che oggi chiamiamo web, chi è misteriosamente scomparso, chi è morto alcolizzato, chi è stato ucciso, chi è annegato. Quindi c'è anche questo alone fantastico. Andrea da Venezia, buongiorno. Buongiorno, sono Nicoletti, grazie per la possibilità. Dunque io ho 34 anni e penso di aver vissuto gli ultimi 10-15 anni della mia vita molto legato a internet, con tutte le nuove possibilità che questo mi ha dato. In primis appunto l'accesso alle informazioni e anche a tutto quel materiale che non così come si dice freeware, cioè senza necessità di doverlo pagare, ma anche l'accesso a quei dati, a quelle informazioni che erano protette da diritto d'autore. Io credo che davvero la vera esigenza sia quella di una nuova regolamentazione, perché il diritto d'autore si porta con sé anche tutta una parte di sfruttamento commerciale, e credo che il vero problema... Cioè, in sintesi, per capire, scusi Andrea, cioè lei smanetta e scarica illegalmente, questo è il... succede, sì. Diciamo che ho smesso perché credo che la vera... È in crisi di astinenza in questo momento. No, anzi no. Perché credo che si sia adeguata, almeno non dappertutto, sicuramente fuori dall'Italia, dove magari si è un pochettino più avanti anche a livello di mentalità e di utilizzo, insomma, della rete. La politica commerciale è un po' cambiata, quindi anche quindi la politica dei prezzi, e io ho cominciato ormai da tempo a non aver più la necessità necessità veramente economica di dover smanettare, come dice lei giustamente, con termine corretto, e quindi scaricare illegalmente del materiale, ma ho cominciato ad acquistarlo perché i prezzi sono diventati adeguati a quello. Sì, alla fine sono pochi euro. Il vero pregiudizio che ancora abbiamo, soprattutto in Italia, è quello dell'uso della nostra carta di credito, ma anche in quel caso ci sono dei sistemi che possono tutelarci. Io ho rischiato fin dall'inizio, poi ci sono degli strumenti che tutelano veramente, certo. Perché se posso fare un nome... Certo, lo conosciamo tutti. PayPal, esatto. Certo. Secondo me è uno strumento fantastico da quel punto di vista, sia nella velocità della transazione, nella semplicità della transazione e soprattutto della sicurezza. Ecco, allora io farei parlare adesso altri due ascoltatori prima della pausa, così poi i nostri ospiti possono darvi delle risposte. Lei in particolare sarebbe Andrea Rossetti, la persona adatta, essendo proprio un informatico giuridico. Mario da Roma, buongiorno. Buongiorno Nicoletti, mi sente? Certo. Perfetto. Diciamo, a me questa legge proposta da Sarkozy mi ha veramente sorpreso, va al di là della mia capacità di comprensione, perché comunque un crimine commesso con uno strumento informatico prevede comunque, diciamo, le sanzioni amministrative, reclusione eccetera, di qualunque altro crimine che si possa commettere. Cioè, perché poi, diciamo, chi l'ha commesso deve essere privato dell'uso di internet? È come, diciamo, come tagliare la mano a un lato, ma diciamo fargli un'iniezione e paralizzargli le mani per un po'. Sì. Cioè, è una cosa in più che non relativa soltanto al crimine informatico. Che Andrea, dovevi sottolineare qualcosa quando parlava l'ascoltatore? Sì, perché sì, non è una sanzione amministrativa. Ecco, sì. Questo qui no, si cerca di ridurre sanzioni amministrative, cose che hanno una portata ben si maggiore, riducono la libertà servizio. Della ecco, persona. Ecco. Insomma, la libertà della persona non può essere una multa, una cosa amministrativa, insomma. Quando tocco la libertà della persona non posso mai avere sanzioni tipo meramente amministrativo, e questa è la cosa importante ribadita anche da questa sentenza. Ecco, rispetto a quello che dice l'ascoltatore di prima, Andrea, abbiamo già accennato il problema in particolare sul diritto d'autore e sul rapporto fra editore e proprietà dell'editore, mi sembra sia una questione che ancora è risolvibile. È una questione caldissima, direi, questa, proprio perché gli editori stanno vivendo, la maggior parte degli editori, poi non tutti per la verità, però soprattutto quelli piccoli e medi stanno vivendo molto male questa transizione al digitale, e vedono nella digitalizzazione dei loro contenuti la perdita del controllo su quello che hanno prodotto, cosa che è in molti sensi falsa, anche perché in molti casi le cose che si trovano digitalizzate, i libri che si trovano digitalizzati, ci trovano molti libri digitalizzati, ad esempio una cosa che le persone di solito non sanno, sono spesso libri che sono fuori commercio, che quindi l'editore stesso non ha trovato conveniente di stampare. L'ha mandati al macero? Li ha mandati al macero, li trovo sulle bancarelle se sono fortunati, però in molti casi l'unica maniera di averli è accedere a questi strumenti, i fumetti, sono un sacco di fumetti digitalizzati degli anni 40-50 in cui il cartaceo non esiste più, oppure costa decine di migliaia di euro in alcuni casi. Gian Piero Lutito, volevi aggiungere qualcosa? Sì, comunque è un problema che va affrontato e risolto in tante direzioni. L'esempio più clamoroso nel mondo digitale forse è quello della Microsoft. Microsoft è diventata tale perché Bill Gates ha avuto l'idea negli anni 70 di far pagare il software, che prima era un oggetto di scambio tra sviluppatori. Dopo oltre 30 anni Microsoft sta pensando di distribuire gratuitamente software in rete in cambio di pubblicità. Cioè, comunque anche chi ha creato le regole della compravendita nel mondo digitale sta pensando al fatto che non si può continuare solo a vendere secondo le vecchie regole, ma bisogna cominciare a inventare o comunque a modificare le regole pensando a qualcosa di nuovo. E quello che proprio è il bandolo di questa trasmissione, il cambio di atteggiamento dei padri fondatori, degli dèi da cui è emanata questa idea, nell'osservazione di quello che sta accadendo. 800 24 0024, stiamo parlando di internet, stiamo parlando di rete, stiamo parlando di un atteggiamento generalizzato non da parte di chi della rete è studioso, approfondisce gli aspetti dal punto di vista tecnologico, dal punto di vista della relazione umana, dal punto di vista della diffusione del pensiero, ma della gente comune, di coloro che a un certo punto hanno cominciato a sentir parlare di internet, hanno cominciato a far entrare nei loro usi comuni questa modalità e oggi trovano probabilmente abbastanza singolare che se ne parli ancora come di un fenomeno. Fra gli ospiti questa mattina ho Gian Piero Lotito, che magari ci può dire quello che è un atteggiamento che più o meno seguono tutte le nuove tecnologie, l'hype cycle, che è una sorta di curva che determina che di fronte a una novità all'inizio c'è un grande entusiasmo e poi è proprio accertato tecnicamente che scema l'entusiasmo. Come accade? È un ciclo che è stato studiato dalla più grande società di analisi del mondo, che è Gartner, e che è stato formalizzato appunto in questo hype cycle. Tutte le tecnologie seguono una prima grande fase di attenzione che diventa a volte anche esagerata, perché c'è proprio una crescita delle aspettative, spesso a livello mediatico. Pensate alla realtà virtuale a metà anni 90. C'era anche una rivista, ricordi, Virtual, bellissima. Noi pensavamo che da un giorno all'altro potessimo tutti passare con il guanto e gli occhialoni la nostra vita a dare tastamenti virtuali, non se ne è mai più parlato. Ma io ricordo un giornalista che andò al Costanzo Show a dire che un giorno i disabili avrebbero potuto giocare grazie alla realtà virtuale con Magic Johnson a basket. Cioè, ci sono queste forme. Ricordo strane. Il tagliaerbe, un filmaccio orrendo di uno psicopatico che faceva il giardiniere, che si virtual trombava la sua padrona, esatto, di casa, una cosa del genere. Se ricordate, ci fu un'attenzione altissima per la realtà virtuale, che poi in realtà, quando è passato il momento di entusiasmo e è cominciato quello della disillusione, si è persa, anche perché era una tecnologia che non era così semplice da diffondere. Anche internet, come tutte le tecnologie che conosciamo, segue un flusso di questo tipo. Se pensate, internet ha avuto un momento di crisi. A che punto siamo di questa curva, secondo te? Internet è una tecnologia che tecnicamente si chiama dalla lunga miccia, long fuse, perché ha bisogno di un periodo tra i 10 e i 20 anni per assestarsi e per diventare effettivamente una tecnologia diffusa socialmente, consolidata. Siamo vicini al 20° anno, perché siamo intorno al 17° anno, quindi siamo nella fase in cui si sta consolidando, e infatti tutta una serie di fenomeni, tu citavi prima quello delle transazioni sicure, il fatto di poter spendere i nostri soldi in internet senza paura. Gli analisti già da almeno 5 anni dicevano che intorno al 2012, quindi in un decennio, avremmo avuto questo tipo di tecnologia sicura. Quindi stiamo arrivando, siamo ancora nella fase finale. Per cui, tornando al discorso iniziale, tutti gli entusiasmi della prima ora, o comunque gli entusiasti ciclici che vengono fuori a ogni ondata nuova di tecnologia, fanno parte della vita della tecnologia. Spesso loro diventano scettici, spesso lo scetticismo nasce perché le aspettative non sono rispettate. Stefano Morigi, filosofo della scienza, quando la tecnologia ormai entra nell'uso comune, può essere ancora considerata qualcosa di alieno, di innaturale rispetto a quelli che vengono considerati i comportamenti naturali? No, assolutamente no. Io credo che la tecnologia cambi costantemente gli stessi nostri parametri con cui culturalmente, quotidianamente diciamo che cos'è naturale e che cosa non è naturale. Ma volevo riprendere la questione... Lo sai perché te l'ho chiesto? Perché ancora c'è gente che mi scrive io preferisco ancora il vecchio, caro e antico contatto fisico con le persone, come se passare gran parte della propria giornata per motivi professionali, ma anche per passione e curiosità davanti a un computer, significasse appartenere ormai a una classe degenerata. A questi signori mi piacerebbe chiedere se le lettere d'amore che ci si scambiava una volta fossero o siano ancora naturali o innaturali, più di un'email da vedere, insomma. Forse non portano più il profumo di cui era intrisa la lettera, che ricordava l'amata e la carne dell'amato, però insomma non mi sembrano molto più naturali o molto meno naturali. Ricordava, la congelava in un momento innaturale della profumazione, la carne dell'amato e l'amato seguiva il suo naturale processo di essudazione, di macerazione durante la vita, durante la giornata. C'è un punto sull'entusiasmo sul quale mi piaceva tornare, perché c'è un entusiasmo legato a queste nuove tecnologie che riguarda la libertà. C'è l'idea, forse questa sì, spropositata, che queste tecnologie consentano in maniera definitiva la possibilità di una libertà se vuoi democratica costruita dal basso. Mi piacerebbe chiedermi però in maniera profonda che cos'è libertà, perché a mio parere siamo un po' tutti vittima di quello che mi piacerebbe chiamare l'equivoco di Gaber, cioè davvero la libertà è solo partecipazione? Io credo che la libertà, anche in senso stretto, quando la tematizzi nei termini di cittadinanza, è una mediazione tra certo partecipazione ma anche conoscenza e competenza, che è una tua offerta che dai alla comunità a cui partecipi, ma è anche uno strumento che ti consente di discriminare ciò che nella comunità trovi. Quindi io non credo che la libertà sia indistinguibile dalle competenze che tu metti in rete, sia come offerta sia come strumento di difesa critica. Per cui la libertà non è solo partecipazione. In questo senso credo che l'equivoco di Gaber vada superato sia in senso ampio nella società, sia in senso stretto nella politica, e le tecnologie offrono l'opportunità di tornare pesantemente a riflettere su questo tema. Con questo tornerò con Andrea fra un istante, però voglio dare la voce a qualche ascoltatore che sta in paziente attesa. Angelo da Viareggio, buongiorno. Sì, buongiorno Nicoletti, complimenti per la trasmissione e grazie per l'intervento. Niente, io mi volevo riallacciare al discorso dello scambio di file peer-to-peer, che non lo trovo così scandaloso come tanti lo vogliono far apparire, perché se vogliamo fare un passo nel passato, una volta ci si scambiava la cassettina o la videocassetta per i film tra amici, adesso questa cosa con internet si è allargata. Diciamo che si usa un mulo invece che portarle a mano, ecco, la stessa cosa. Esatto, e l'unica cosa che posso ritenere giusta è lo scambio di file, magari, che ne so, di un film che si trova in questo momento al cinema, ecco. Scaricare un tipo di file del genere lo trovo illegale, però è anche bruttino, sono gli ascoltatori, gli spettatori si alzano in piedi, sentono il rumore di fondo, che sono sempre filmetti. Sì, si sente il rumore del cellulare e tutto quanto, però ecco, il condividere un file o un CD di una cosa che uno ha acquistato e poi dice no, guarda, tieni, doppiatelo, questo succedeva. Sì, è questione di lana caprina. Se io mi affaccio alla finestra e porgo il CD al mio dirimpettaio e lui se lo ascolta, o se glielo mando tramite un sistema informatico, qual è la differenza? Niente, non c'è differenza. Una volta si usava così, non c'era scandalo, adesso perché io lo posso scambiare con uno che sta in Sicilia piuttosto che con uno che sta in Irlanda, e la cosa è diventata scandalosa. Allora, tengo sospesa la risposta, che voglio prima sentire gli ascoltatori che aspettano da molto tempo. Daniele da Napoli. Buongiorno Nicoletti, grazie per l'opportunità. Ma posso scusi che uso lei come cavia, vi prego in ginocchio, se no sono costretto a ritirare fuori gli odiosi strumenti di repressione come la motosega. Non dite grazie e non dite complimenti per la trasmissione, scusatemi, è una cosa che proprio... Lo dico, grazie. La seguo... Se non, nemmeno la seguo da tanti anni. Non glielo dico, insomma. No, allora, niente. Cominci subito con quello che deve dire. Allora, io potrei fare un po' la cronistoria di come si è sviluppata internet in Italia, però... Vabbè, non ci interessa. non ci interessa. Parli di lei. Io praticamente volevo dire che sì, scambiavo praticamente materiale, quindi file e giochi e altro, già nel lontano 1989-90 con una BBS praticamente alle quali mi collegavo, poi gli ho aperta una via nel 90-91 fino al 95 per poi si quindi lei fa parte del pionierismo della rete? Diciamo di sì, fondamentalmente io oggi ho 32 anni, però a 12-13 anni praticamente io invece di andare a giocare a pallone mi collegavo al computer, misi su una BBS che erano questi sistemi antichi rispetto sì, praticamente a quello che oggi internet. Cioè, credo che il software si passava attraverso del registratore cassette, era una trasmissione audio. Si passava attraverso gli schetti praticamente parliamo di Amiga, parliamo di Commodore, parliamo di sistemi. Allora, lei adesso in questo momento pensa di aver rappresentato la punta più antica dei padri fondatori di Internet. Stia in ascolto perché le faccio parlare, parliamo con Alberto da Roma. Alberto da Roma, buongiorno. Buongiorno. Quanti anni ha? 88 fra pochi giorni. Ecco, mi racconti la sua vita di pirata informatico che sembra che affermi le radici. No, pirata informatico. No, ma lo dico in maniera è come se fosse un punto d'onore. No, guardi, non sono mai stato pirata informatico. Chi è? Voglio dire, io ho cominciato con... No, non si preoccupi, c'è anche la signora che parla, fa colore, sia tranquillo. Prego, prego. Ho cominciato con il calcolatore nel 64, quando i calcolatori erano Cluce di Pisa. Grandi come una stanza, come immagina. Sì, mi ricordo. 4K. Poi nel 79 è comparso il PET e il Commodore. Poi è diventato C32, C64. E niente, in quel periodo ho scritto una nota che era intitolata Il potere del computer. Il computer era ancora computer, ordinatore, calcolatore, non era un mezzo di telecomunicazione come oggi con internet. Era quello che emetteva schede perforate poi alla fine. Come? Alla fine il supporto no, che... Nel 64 era con schede perforate. Sì, quello dicevo. E ho fatto anche perforazione di schede con la seconda macchina che correggeva le schede della prima. No, quando col Commodore, col PET C64 e poi dopo l'IBM, invece la nota che scrissi era intitolata Il potere del computer, come comandare ad un servo che non ha paura della morte. Perché questa è stata per me nel lavoro di costruzione la sua massima di vita. Programmi. Ma quindi lei è un programmatore di antica data. Senta, signor Alberto da Roma, io devo lasciare la linea alle informazioni per il traffico. Poi se resta in linea le faccio concludere, perché sennò sembra brutto che la tagli in maniera così drastica. Il suo intervento, vorrei sapere oggi cosa fa ancora. Qual è il suo rapporto con le macchine che abbiamo anche noi, che condividiamo tutti i giorni? Stiamo parlando con Alberto da Roma, una delle colonne miliari della nostra storia informatica. Ci sta raccontando che all'età di 88 anni ha avuto rapporti con le più lontane, più vetuste, più mastodontiche macchine di calcolo che oggi chiamiamo computer. Alberto, è ancora lì? Sì, sono ancora qui. Ecco, oggi lei che macchina ha e qual è il suo rapporto con la rete? Visto che non sono più macchine staccate dal mondo come erano le prime. Io adesso, si figuri, i primi programmi passavo le notti a guadagnare 10K, avevano come sa 36K di memoria. Adesso con i giga, voglio dire, è diventata una cosa di estrema facilità. Direi anche che si è perso il senso del calcolatore come calcolatore. E cioè come si dice, programmi. Beh, ma lei lo sente dire... come un limite. Oggi il computer è soltanto un mezzo di passaggio. In realtà, ecco, la forza è l'interconnessione fra esseri umani. Quello che appunto volevo dire, e cioè che per me il personal personalizzava se lo si sapeva programmare. Grazie. E quindi ho dedicato il mio tempo a questa cosa. Dopodiché, naturalmente, ho apprezzato il frutto notevole del calcolatore diventato del Ministero, non più della scienza e della tecnica, ma del Ministero delle Telecomunicazioni. È chiaro, grazie Alberto, è anche comprensibile questa sua nota nostalgica. Andrea Rossetti, quando il calcolatore è uno strumento di calcolo. Oggi non si può più chiamare calcolatore perché semplicemente, come diciamo noi, una nostra protesi, è un nostro prolungamento verso il mondo. Sì, l'hardware è passato totalmente in secondo piano. Insomma, io mano un oggetto che mi permette di connettermi a internet, di guardare Facebook, di parlare con i miei amici. Insomma, quindi in realtà adesso, appunto, mentre prima il focus era sulla parte hardware e poi per un periodo è stata sulla parte software, adesso l'attenzione è sulla possibilità di connettività che ci danno queste macchine. Questo si lega a quello che diceva Stefano Morigi nella parte precedente della trasmissione. Il fatto che internet è diventato accessibile. Gli strumenti di comunicazione, quindi anche le maniere per crearsi un luogo di visibilità, non richiedono più capacità esoterica, ma questo da una decina d'anni, il blogger, la possibilità di costruirsi dei siti senza avere necessariamente cognizioni di tipo particolare, conoscere l'HTML e via dicendo, ha ingenerato però questa deriva verso la frequentazione della rete come un diritto all'espressione, giusto e lecito, ma anche una molte volte velleità di poter essere rappresentativi di qualcosa. Sì, esatto, insomma, la possibilità di scrivere facilmente senza conoscere HTML o qualche genere di linguaggio, di mettere in rete le proprie idee, per un certo periodo ha fatto illudere che tutti avessero qualcosa di interessante da dire. Ormai sono 10 anni che queste tecnologie più o meno sono diffuse e ahimè ci si è resi conto che la maggior parte delle persone non ha cose molto interessanti da dire, insomma, e non si sta verificando quella peraltro che si credeva all'inizio, questa selezione naturale dei contenuti. In realtà no, vediamo, c'è la stratificazione dei contenuti, ma neanche, in realtà c'è un caos totale, insomma, non si è verificata nessuna delle previsioni. Ricordo una di Carlo Formenti, ad esempio, un amico Carlo Formenti, che diceva no, a un certo punto la fuffa morirà perché le persone, la rete, il meccanismo stesso selezionerà le cose buone. Ma sono passati 5 anni, adesso neppure Carlo Formenti, appunto uno degli entusiasti di questa cosa, sostiene più questa tesi. Ci si è resi conto che in realtà la rete di per sé non è sufficiente come meccanismo per selezionare le cose buone. Ecco, su questo argomento oggi avrei voluto un altro ospite, che è Fabio Metitieri, che ha scritto Il grande inganno del web 2.0, edizione La Terza, che è stato, veniva considerato un troll dalla rete. Dico veniva perché è morto, ahimè, un caro amico, il giorno che è uscito questo libro lui ha preso un infarto e è morto. Questo è un grande paradosso, una persona che tutta la vita ha studiato questi fenomeni, è stato antagonista rispetto agli entusiastici della rete, tanto che era considerato un rompiscatole, un troll che metta sempre lingua nelle discussioni auliche dei grandi blogger italiani, che poi in realtà secondo lui erano persone che si conquistavano una leadership in questo mondo considerato nuovo per poi accedere ai mezzi di informazione tradizionali. Ecco, su quello che ha scritto Metitieri, che oggi ricorderemo tutti assieme questo pomeriggio a Milano, tu che anche come me hai letto il suo libro, qual è la sintesi di questo nuovo atteggiamento, diciamo, di cyberscetticismo? Ma è quello che ho detto prima, che non è quello di Sarkozy, facciamo una differenza. No, è una cosa completamente diversa. Qui ripeto, c'è stata per un po' l'illusione che la mera possibilità di accesso alle informazioni fosse in qualche modo partecipazione, come diceva prima Stefano. Invece una cosa è accedere alle informazioni, una cosa è comprenderle, una cosa è poi partecipare anche ad esempio alla discussione politica. L'altro grande fraintendimento è stato appunto l'idea che io sono lì, manifesto in qualche modo il mio ego e questo sia in qualche maniera interessante, non solo per i miei amici ma rilevante per modificare la società. Insomma, io posso modificare l'agenda dei politici, dei giornali, dei media mainstream. Con gli anni Metitieri ha mostrato in questo libro, insomma, che non è avvenuto. Quello che si è creato, soprattutto in Italia, la sua è interessante perché è un'analisi sulla situazione italiana, quello che si è creato è stato un clan di amici che si linkano tra di loro e in questo modo estremamente autoreferenziale fingono di avere un impatto sulla società. Noi in Bicocca stiamo svolgendo un'indagine in cui ci siamo resi conto che in realtà i blog, non tanto appunto quelli più famosi, ma anche tutti gli altri, in realtà non hanno un impatto praticamente nullo. Abbiamo fatto un'indagine sulle ultime elezioni politiche e ci siamo resi conto che in realtà dei blog che a Milano dicono di occuparsi di politica, praticamente nessuno si è occupato di politica locale, ma tutti avevano la pretesa di dire la loro su quello che faceva Berlusconi piuttosto o su Obama, o su Obama, insomma, su Israele, dimenticando totalmente la dimensione locale, che è quella che sarebbe interessante. L'idea era, no, dal globale si ritorna al locale, cioè avrò il blog che mi parla del problema, del fatto che ho il buco davanti alla strada e che il sindaco non lo ripara. Queste cose non ci sono. Tutti questi strumenti in realtà sono rivelati alla fine un modo più per lustrare il proprio ego che per raccontare la realtà. Insomma, non ci sono i giornalisti, insomma, non sono un'alternativa. Giampiero Lotito, sembra che su questo io ho un'annosa polemica aperta con il mondo dei blogger italiani, che un giorno feci un pezzo che li definì una sorta di setta cyberfighetta, di cui l'unico scopo era quello di accedere ai media tradizionali. Allora, ci si muove, si acquista una leadership nel mondo degli amichetti che ti linkano, e poi speri che il grande giornalista che non ne sa nulla di rete, con ignorante totale, ti chiami come esperto e poi diventi una firma di un grande giornale. Sì, è un po' un meccanismo che esiste, che si è perpetuato in questi anni. Poi la rete in qualche modo lo assorbe, come diceva prima Andrea, e volevo aggiungere anche a quello che diceva Andrea prima una cosa importante. Siamo noi poi alla fine a selezionare l'informazione. La rete non può essere autoselettiva, la rete ci propone una massa sempre crescente di informazioni e sta a noi sceglierle. Io proverei a pensare, ognuno di voi possa pensare a quanti siti effettivamente poi consulta quotidianamente. Ormai credo che siamo sotto i 10 a testa. Quelli Stefano che... Morigi, siamo proprio in conclusione, hai 2 secondi. Il tuo punto di vista su questa differenza fra possibilità di parlare e effettivamente avere qualcosa da dire? A mio parere le tecnologie smascherano questo equivoco della libertà oltre che consentirlo, e quindi questa è una ragione per approfondirne le semantiche, le dinamiche, e capire che la libertà non è solo partecipare. Partecipare è importante, come si dice, con uno spirito olimpico, ma bisogna partecipare con delle competenze che sono un'opportunità per gli altri e per se stessi. Grazie, a domani. Lasciate un messaggio alla segreteria telefonica di Melog 828 1111. Melog 2.0.